subito, via Caramelli. Non tenere, noi salve andiamo.

bottiglia. Controllo, grazie. Buongiorno Gian Maria, mi hai sentito? Ogni tanto entri. Ovvero, meno male, ogni tanto entri, vuoi sentire. Come va? Non c'è una morata. Non c'è male, non c'è male. Ok, comunque buongiorno a tutti. Un controllo con il radio, Mario. Non c'è niente radio, aumenta. Ma non c'è radio? Aumenta. Aspetta, vabbè, riprendo dopo, riprendete un attimino. Buongiorno. Chi è? Un po' voi. Oh, sintonia, stiamo rientrando Chicco. Quindi lì si sono gli altri, e con la fare un pagamento per un altro radio e niente, e poi me ne rientro a casa. Prova di mollazione, ora. Vai! Grazie.